Basic Italian, 7th edition. Chapter 2. A. We'll start out by doing some dictation. You will hear a list of 10 words, each of which will be repeated. After the repetition, write the word down in your manual. Let's start. 1. Cera. Cera. 2. Sera. Sera. 3. Serra. Serra. 4. Pesche. Pesche. 5. Pesce. Pesce. 6. Paglia. Paglia. 7. Cigola. Cigola. 8. Ragno. Ragno. 9. Cespuglio. Cespuglio. 10. Schiuma. Schiuma. Now, the entire list will be read through once. As you check your work, repeat each word after the speaker. 1. Cera. 2. Sera. 3. Serra. 4. Pesche. 5. Pesce. 6. Paglia. 7. Cigola. 8. Ragno. 9. Cespuglio. 10. Schiuma. B. Answer the questions you hear by using the information given in your manual. First, listen as the model in your manual is done for you. Chi chiama? Gianni chiama. Now it's your turn. 1. Chi chiama? 2. Andrea e Luisa chiamano. 2. Chi chiama? Noi chiamiamo. 3. Chi chiama? Lo zio Guido chiama. 4. Chi aspetta? Voi aspettate. 5. Chi aspetta? Tu aspetti. 6. Chi aspetta? La signora Dato aspetta. 7. Chi non aspetta? Marco non aspetta. 8. Chi ascolta? Gli studenti ascoltano. 9. Chi ascolta la domanda? L'insegnante ascolta la domanda. 10. Chi entra in classe? La professoressa entra in classe. 11. Chi non entra in classe? Andrea e Giuliana non entrano in classe. 12. Chi insegna il corso d'italiano? Anna Lemmi insegna il corso d'italiano. 13. Chi ritorna a casa? Lo studente ritorna a casa. 14. Chi non ritorna in biblioteca? Nicola non ritorna in biblioteca. 15. Chi guarda la televisione? La bambina guarda la televisione. 16. Chi ascolta la radio? La mamma ascolta la radio. 17. Chi parla al telefono? I ragazzi parlano al telefono. 18. Chi non trova il manuale? Andrea non trova il manuale. 19. Chi cerca gli appunti? Gianni cerca gli appunti. 20. Chi cerca il gesso? Noi cerchiamo il gesso. C. Answer the next set of questions as before. Listen first to the model. Che cosa legge lei? Leggo gli appunti. Now it's your turn. 1. Che cosa leggono gli studenti? Leggono le parole nuove. 2. Che cosa leggi tu? Leggo il giornale. 3. Che cosa leggono le signore? Leggono le riviste. 4. Che cosa legge l'insegnante? Legge la lezione. 5. Che cosa ripetono gli studenti? Ripetono le parole nuove. 6. Che cosa ripete la studentessa? Ripete la domanda. 7. Che cosa ripetiamo noi? Ripetiamo l'esercizio. 8. Che cosa prende Giorgio? Prende l'automobile. 9. Che cosa prendete voi? Prendiamo l'autobus. 10. Che cosa chiude Maria? Chiude la porta. 11. Che cosa chiudete voi? Chiudiamo i libri. 12. Che cosa chiudi tu? Chiudo il quaderno. 13. Che cosa scrive la professoressa? 14. Scrive le parole alla lavagna. 14. Che cosa scrive lei a casa? Scrivo la lettera. 15. Che cosa risponde il signor Biaggi? Risponde bene, grazie. 16. Chi non risponde in classe? Andrea non risponde in classe. 17. Che cosa vede lei? Vedo la lavagna. 18. Che cosa non vedono le ragazze? Non vedono il film. D. Now a series of statements will be made. Taking your prompt from the manual, answer that the person indicated in the prompt does that too. Listen first to the model. Maria studia matematica. Anch'io studio matematica. Let's begin. 1. Carla e Antonella conoscono bene l'italiano. Anche Luigi conosce bene l'italiano. 2. Franco e Graziella ripetono l'esercizio. Anche tu ripeti l'esercizio. 3. La bambina risponde bene. Anche il bambino risponde bene. 4. Io conosco lo studente straniero. Anche Patrizia conosce lo studente straniero. 5. Tu continui a studiare. Anche noi continuiamo a studiare. 6. Noi cerchiamo il libro di biologia. Anche voi cercate il libro di biologia. 7. Voi incontrate le ragazze in biblioteca. Anche loro incontrano le ragazze in biblioteca. 8. Lei ripete i verbi. Anch'io ripeto i verbi. 9. Noi conosciamo bene l'inglese. Anche Luciano conosce bene l'inglese. 10. Voi leggete il giornale. Anche noi leggiamo il giornale. E. A set of statements will now be made. You will take your prompt from the manual and respond that, unfortunately, the situation is different for the other person. Listen carefully to the model. Noi ascoltiamo la professoressa. Andrea, purtroppo, non ascolta la professoressa. Let's begin. 1. Carla insegna ora. Teresa purtroppo non insegna ora. 2. Marisa scrive bene. 3. Vittoria purtroppo non scrive bene. 3. Lo zio Alfredo telefona oggi. La zia Flavia purtroppo non telefona oggi. 4. Io guardo la televisione. Noi purtroppo non guardiamo la televisione. 5. Gli studenti ripetono le parole. Andrea purtroppo non ripete le parole. 6. Laura abita a casa. Luca purtroppo non abita a casa. 7. Voi mangiate bene. Io e Franco purtroppo non mangiamo bene. 8. Milena comincia a parlare bene l'italiano. Mirella purtroppo non comincia a parlare bene l'italiano. 9. Noi troviamo il tempo per studiare. Andrea purtroppo non trova il tempo per studiare. 10. Ci sono 2 telefoni a casa di Patrizia. A casa di Giovanni purtroppo non ci sono 2 telefoni. F. In the next exercise, you will be given the name of an item and the name of a person. Put the 2 words together to state that the item belongs to the person. First, listen to the model. Film Antonioni. È il film di Antonioni. Now it's your turn. Repeat each word as it is said by the speaker. Then, recite your sentence. Lastly, listen for the confirmation. 1. Musica Mozart. 2. È la musica di Mozart. 2. Opera Puccini. È l'opera di Puccini. 3. Film Fellini. È il film di Fellini. 4. Novella Verga. È la novella di Verga. 5. Sinfonia Beethoven. È la sinfonia di Beethoven. 6. Intermezzo Mascagni. È l'intermezzo di Mascagni. 7. Aria Verdi. È l'aria di Verdi. 8. Preludio Rossini. È il preludio di Rossini. G. You will now hear a telephone conversation. Listen carefully to the dialogue, then answer the questions in your manual. Write out your answers. The questions following the dialogue will not be asked on the tape, nor will the answers be confirmed. Pronto? Chi parla? Buongiorno, signor Costa. Sono Laura, l'amica di Luisa. Luisa c'è? No, non c'è. È in biblioteca. Allora telefono domani. Sì, sì, telefona domani. Domani c'è. Laura, come sta la mamma? La mamma sta abbastanza bene, grazie. Bene, arrivederci allora. Arrivederla e buonasera.